stati di emergenza, stati in emergenza, ma per quanto? Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Put out an executive order today, New York State on pause, policies that assure uniform safety for everyone. Les Marocains jouent le jeu, donc il y a pratiquement plus personne dans les rues. À partir du moment où on a eu des instructions, elles ont été suivies, elles sont suivies de manière massive. Et... Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, buon inizio di settimana da parte mia, da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, Antonio Tali, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in assistenza Danilo Di Trani e Paolo Corleone che è in regia. (349) 238 6666, sms, whatsapp, commenti e domande su che cosa? Tra pochissimo ve lo dico. Vi anticipo però che potete utilizzare anche Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter, se amate questo social, i due account da tenere d'occhio sono Nessun Luogo 24, ovvero il mio che è Giampaz. Stati Uniti, New York si spegne, scende in campo la Guardia Nazionale. America Latina, dopo le proteste, gli eserciti controlleranno il rispetto delle norme. In Israele il dibattito è sui controlli biometrici. In Ungheria il primo ministro Orban chiede di governare per decreto nel paese, ma senza un termine di scadenza. Nelle Filippine stato di calamità con l'esercito schierato. La pandemia e gli stati di emergenza, emergenza sanitaria, calamità, comprimono le nostre libertà individuali e collettive e sospendono in alcuni casi i diritti. Ma per quanto e con quali conseguenze? Questo è il tema che vi propongo in questa prima puntata di Nessun Luogo è Lontano. Vi leggo qui al 349-238-6666. Fatemi fare una piccola notazione perché sono arrivati due messaggi a stretto giro con lo stesso testo ed è l'ennesima teoria cospirazionista con una... spiegazione assolutamente poco plausibile su quello che è il coronavirus. Il mio pacato invito è di lasciar perdere tutta quella selva di informazioni che girano sui social e che iniziano normalmente con importante, tre punti esclamativi da leggere con cura. Ecco, vi prego di fare un piccolo sforzo per evitare che già in una situazione così drammatica vi sia anche un fumus informativo che certamente non aiuta la comprensione. Anche quest'oggi proveremo a comprendere quello che accade nel mondo al di là e sullo sfondo del coronavirus, per cui Paolo, la prima cosa da fare è sfogliare i nostri dossier internazionali. C'è una notizia che ci arriva dall'Afghanistan, per certi versi inaspettata e inattesa, per altri in realtà chi segue da vicino le vicende afghane non così implausibile appunto. C'è stata una visita a sorpresa del segretario di Stato statunitense Mike Pompeo, è arrivato quest'oggi a Kabul. L'obiettivo della visita? Cercare di rimettere insieme i pezzi dopo che l'Afghanistan, lo ricorderete, più del 50% del territorio è controllato dai talebani, accordo di pace siglato a Doha fra Stati Uniti e talebani stessi. Finalmente, dopo 7 mesi, arrivano i risultati delle elezioni nazionali per la presidenza afghana, elezioni a cui ha partecipato davvero la minoranza degli afghani stessi. Vince Ashraf Ghani, fa la cerimonia, peraltro cerimonia funestata da attacchi. Nello stesso momento Abdullah Abdullah, il suo contendente, si autoproclama anch'egli presidente. Insomma, una situazione veramente difficile da gestire, tanto che lo stesso Pompeo non solo ha incontrato Ashraf Ghani ma anche Abdullah Abdullah. Secondo Victoria Fontan dell'Università Americana di Kabul, l'intenzione di Pompeo è creare un governo di unità nazionale per sbloccare proprio questa impasse interna. Immaginate se davvero, oltre al governo ombra di Abdullah Abdullah, sullo sfondo abbiamo il governo che molto più che ombra è molto solido, molto concreto, quello dei talebani. Quindi adesso Mike Pompeo dovrà cercare di mettere insieme le almeno 3 anime che convivono in Afghanistan. Secondo Victoria Fontan, la popolazione è favorevole a qualsiasi tipo di accordo, basta che si raggiunga la pace, ma è facile ed è intuibile dopo ormai 25 anni di guerra civile. Ancora una volta sullo sfondo dell'emergenza coronavirus si dipanano quelle che sono altre dinamiche, su tutte quella migratoria, che è passata assolutamente in sordina. Tutti i principali network e i principali giornali si concentrano su quello che è il bilancio, come i vari governi del mondo stanno reagendo a questa emergenza, ma nel frattempo la gente si sposta e, come sapete, come spesso abbiamo raccontato da questi microfoni, la Grecia, vera porta dell'Europa, assieme a quel passaggio che arriva dalla Turchia, sta soffrendo la pressione migratoria e a ciò si sta aggiungendo anche la pandemia. La settimana scorsa il governo greco ha implementato una serie di nuove misure per cercare di gestire al meglio quella che è questa doppia emergenza. In particolare si è concentrato sulle isole che ospitano i rifugiati. A partire da mercoledì i campi sono stati chiusi dalle 19 alle 7 del mattino. Durante il giorno una sola persona per famiglia è autorizzata a uscire. La polizia controlla ogni movimento. Screening obbligatorio della febbre. Insomma, una serie di misure per cercare di monitorare per quello che è possibile l'altissima popolazione che è stipata ormai da mesi nelle varie isole. Stiamo parlando di Chios, di Samos, di Lesbos, incluso il famigerato campo di Moria. In totale stiamo parlando di 36.400 persone, molto spesso in condizioni igienico-sanitarie deprecabili, il che, come potete immaginare, in occasione di una pandemia potrebbe creare un effetto volano incredibile. In più il governo greco ha dichiarato che sostituirà i campi con nuove strutture per identificazione e trasferimento con capacità di almeno 5.000 persone ciascuno. Insomma, in buona sostanza la Grecia si sta rimboccando le maniche, perché se all'emergenza costante che aveva dell'immigrazione si è aggiunta quella della pandemia, è evidente che bisogna raddoppiare gli sforzi. L'ultima notizia dei nostri dossier internazionali: ieri è stata celebrata la giornata internazionale dell'acqua, è un tema a noi molto caro, spesso lo affrontiamo, utilizzare la guerra per l'approvvigionamento idrico e come grande lente per spiegare tanti conflitti che si sono succeduti negli ultimi anni. Si può parlare per esempio del fiume Giordano, del Tigri e dell'Eufrate, addirittura del fiume Nilo. Pensate come costruire una diga, per esempio, sto pensando proprio al Nilo e la questione tra Etiopia e Egitto, possa sconvolgere assolutamente i delicati equilibri geopolitici. C'è qualcuno addirittura, c'è una narrativa e una letteratura piuttosto consolidata in questo senso, che va a spiegare l'inizio delle primavere arabe e tanti altri conflitti proprio con la scarsità di acqua. Mi riferisco al celebre saggio di Brahma Cellani sul conflitto dell'acqua. Vi segnalo invece, appunto complice la giornata che si è celebrata ieri, iraqwithoutwater.org, è un web documentario, è un viaggio sull'acqua e nell'acqua. In Iraq, da Mosul a Basra, passando per Sulaimania, Baghdad, le antiche paludi mesopotamiche, è un lavoro realizzato dalla giornalista Sara Manisera, la fotografa Arianna Pagani, con un ponte per che da 30 anni, un ONG, spesso li ospitiamo, che è attiva proprio in Iraq. L'idea è indagare e raccontare il fiume Tigri e spiegare quanto esso sia importante. Naturalmente nel web documentario, lo ripeto, iraqwithoutwater.org, ci sono anche le storie, e le storie in questo genere di lavori evidentemente la fanno sempre da padrone. Sentite Sara Manisera. Tra tutte le storie dei giovani iracheni che lottano per il diritto all'acqua, vale la pena di ricordarne due. Quella di Salman Khairallah, un ambientalista, un difensore di diritti umani e un esperto di acqua, che ha lanciato una campagna chiamata Save the Tigris and Iraqi Marshes, lanciata proprio per sollevare l'attenzione internazionale sul patrimonio e sulle risorse idriche in Iraq. Salman controlla frequentemente il livello dei fiumi Tigri e Eufrati e lui crede che sia necessaria un'alleanza globale per salvare le acque di questi fiumi millenari, perché essi rappresentano il patrimonio ambientale di tutti. Accanto alla sua storia c'è poi quella di una giovane avvocata, Isra Farah, che ha scelto di dedicarsi alla difesa del diritto all'acqua pulita. E quello che lei racconta si può sintetizzare in questa frase: stiamo difendendo il diritto all'acqua non solo per gli iracheni ma per tutti, ed è questa l'importanza di questa lotta. La voce di una delle autrici, Sara Manisera, un lungo viaggio in Iraq, lungo il corso del fiume stesso per spiegare l'importanza delle fonti di approvvigionamento di acqua e come esse possono plasmare in maniera indelebile i territori e creare anche dei conflitti. Questi i nostri dossier di oggi, ma adesso torniamo al tema, al cuore di questa puntata di Nessun Luogo Lontano, che è l'emergenza. stati in emergenza e stati dichiarati di emergenza. Come osservava domenica Lucia Capuzzi su Avvenire, mettendo poi nero su bianco quel dibattito che circola molto sui social, soprattutto tra gli addetti ai lavori, riferito al lessico dei giornalisti nel raccontare l'emergenza coronavirus, molto spesso questo lessico è ricorso, fin dall'inizio devo dire, alla metafora bellica. Siamo in guerra, la prima linea, gli eroi, i caduti, facendo poi alzare gli scudi a chi in guerra, quella vera, strettamente intesa, c'è stata davvero. Però quella narrativa, magari discutibile, ha decisamente un merito. Si ribadisce che è una crisi per molti versi mai vista a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e che siamo in un'economia bellica. Ma quando il nemico sarà sconfitto, deporremo davvero le armi? E soprattutto, come in tutti gli scenari post-conflitto, sarà ancora il mondo in cui eravamo abituati a vivere? 349-238-6666 per i vostri commenti, le vostre domande in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, che sarà un vero e proprio viaggio per cercare di passare in rassegna le diverse dichiarazioni di stato di emergenza effettuate da alcuni paesi. In alcuni casi si è ricorso a misure economiche, in altri a limitazioni molto forti della libertà individuale, in altri casi ancora al tracciamento digitale dei nostri spostamenti. Tutto ciò, evidentemente, se si compie in un regime democratico, nessuna paura. Se sono regimi, diciamo, la cui democraticità vacilla, forse qualche dubbio ce lo possiamo porre. La prima tappa del viaggio di oggi ci porta a New York, perché era tanto tempo che New York, la grande mela, la città delle mille luci, non si spegneva e non vedeva lo schieramento della Guardia Nazionale. Sentite le parole del governatore Cuomo. Put out an executive order today, New York State on pause, policies that assure uniform safety for everyone. Uniform safety for everyone. Why? Because what I do will affect you, and what you do will affect me. Ancora una volta richiamando al senso della responsabilità collettiva il governatore Andrew Cuomo, allo scorso 11 marzo ha annunciato poche ore fa che la città è in lockdown. A partire dalle 20 di domenica sera tutte le attività non essenziali sono state chiuse, i pub, i ristoranti di Brooklyn, ai residenti è stato detto di rimanere a casa. Tutti i lavoratori non essenziali, quindi non nei settori ritenuti essenziali, devono restare a casa. Degno di nota è il fatto che Cuomo ha chiesto al presidente Trump di utilizzare il Defense Production Act, che è una legge, pensate, che risale alla guerra di Corea, stiamo parlando degli anni 50, e permette al governo federale di imporre un controllo sull'industria privata per garantire la produzione di quei materiali, di quei servizi ritenuti necessari per la difesa nazionale. La risposta di Trump è arrivata domenica nel corso di una conferenza stampa, ha annunciato appunto il dispiegamento, ve lo dicevo prima, della Guardia Nazionale a New York, California e Washington per assistere i vari governi federali. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano, Riccardo Barlama, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Riccardo, buongiorno, innanzitutto come buongiorno. Stai? Ormai questa domanda è d'obbligo, non è più rituale, è sostanziosa. Ma molto molto preoccupato, anche guardando quello che succede alla mia Italia, e anche noi siamo in autoisolamento ormai da 2 settimane. Sì. Io diciamo mi sono avviato prima perché seguivo le vicende italiane, qui sì. Sono un po' più, come dire, lenti nel comprendono gli americani, per questo Cuomo in questi giorni adesso proprio sta parlando con una miss proprio da comandante, perché ha un Apollo, credo che sia dell'esercito, della protezione civile, e lui sta dicendo proprio questo, che la gente ieri si è arrabbiato tantissimo perché c'era il sole, oggi è brutto a New York, primo giorno di della città che non dorme mai, che è isolata in qualche modo. Sì. E la gente ieri era nei parchi a New York, a Prospect Park, a Central Park, si vedevano le persone che correvano non a distanza di sicurezza, e quindi Cuomo si è arrabbiato. Avete sentito questa frase in cui lui diceva: quello che fate lo fate per voi ma anche per gli altri, quindi sì. È il momento di, come dire, di avere un atteggiamento di responsabilità. Di responsabilità collettiva. Riccardo, perdonami, ti interrompo, perché in tutta questa situazione il dispiegamento della Guardia Nazionale in una città come questa, che è il grande faro degli Stati Uniti, incredibile, formidabile laboratorio culturale, fa specie, no? Vedere invece il dispiegamento della Guardia Nazionale. Che effetti può avere, secondo te, concretamente? Intanto va detto che, per capire la situazione esplosiva di questa città, New York ormai è il centro della pandemia negli Stati Uniti, ha il 5% dei casi, 10 volte aumentato negli ultimi giorni. L'America oggi, sembrano gli ultimi dati, 36.000 persone, diciamo, casi confermati, e quindi purtroppo credo che nelle prossime settimane, adesso è terza dopo la Cina e l'Italia, ha superato la Spagna, e credo che la cosa aumenterà. L'esercito vuol dire questo, vuol dire intanto che potranno costruire degli ospedali a campo e dei dormitori accanto agli ospedali, come ho parlato, di 250 posti disponibili subito. Poi dovrebbe arrivare qui a New York una nave militare, Trump l'ha annunciata qualche giorno fa, ma passeranno 2-3 settimane prima che arrivi, con altri 1.000 posti letto. Il governatore è quello che ha i poteri, lo ha ribadito Trump, per governare nei 50 stati americani, diciamo, le situazioni concrete di emergenza. E Cuomo sta facendo proprio il lavoro del comandante, sta venendo davvero fuori come leader, molto apprezzato. E tra l'altro c'è da dire che anche la difesa italiana, il governo italiano ha mandato una richiesta di assistenza al Pentagono. C'era questa indiscrezione uscita innanzitutto sulla CNN, appunto. Ma credo che in questo momento gli Stati Uniti abbiano molto molto da fare, perché temo che l'epidemia del coronavirus nei prossimi mesi. Ieri Bill de Blasio, il sindaco, ha detto: mi aspetto un mese di aprile peggiore di marzo e quello di maggio peggiore addirittura di quello di aprile, quindi non so dove potrà arrivare questa crisi. Diciamo, la situazione è molto molto delicata. Ieri, pensate, nella prima giornata in cui, diciamo, la città si era bloccata nonostante le persone al parco, si sono cominciate a vedere le file davanti ai supermercati distanziati come in Italia, ma anche le file davanti agli ospedali che facevano i test finalmente disponibili. E quindi le persone ci sono centinaia di metri di persone in fila, distanziate di 1-2 metri, con le mascherine, che aspettano fuori dagli ospedali di poter fare questo test. Sì, e queste immagini che ormai ci arrivano da tanti paesi nel mondo che stanno vivendo quello che prima la Cina, poi gli altri paesi dell'est e l'Italia e un po' tutta l'Europa sta vivendo, stupiscono sempre per la loro forza, la loro drammaticità. Gente in fila a distanza di pochi metri, gente in fila ma virtualmente, e su Twitter con un hashtag incredibile che sta sparigliando un po' le carte, quantomeno virtualmente, della campagna elettorale. Fra l'altro un ascoltatore, Riccardo, al 349-238-6666, si chiede: ma come possono gli Stati Uniti organizzare primarie e le prossime elezioni del presidente? Tra poco ti darò voce, Riccardo, anche su questo punto, però dicevo, c'è un hashtag che è circolato, che era Cuomo for President. Insomma, questa gestione della crisi newyorkese sta seducendo, sta conquistando tanti statunitensi, quasi fosse un anti-Trump, però assolutamente fuori dalla competizione. Che riflessi politici può avere questo emergere di un leader capace, rassicurante, senza sbavature anche nel suo lessico, almeno per adesso, poi evidentemente vediamo. Allora, Andrew Cuomo intanto è il figlio di Mario Cuomo, che è stato per 3 mandati governatore dello Stato di New York ed è uno dei leader emergenti del Partito Democratico, classe 57. In questo momento non è candidato, ma non è escluso, il padre ci aveva provato una volta, che possa provarci tra qualche anno. Quello che sta succedendo, certo, lui sta emergendo come leader perché nell'assenza delle azioni del governo federale, Trump, ricordiamo, fino a 10 giorni fa continuava a dire che non c'era problema, che l'America era il paese più preparato, Che era tutto a posto, che c'erano i test, c'erano le medicine. La realtà era tutta un'altra. Questi governatori sono stati lasciati fino a pochi giorni fa da soli, e quindi lui è stato uno di quelli, con quello californiano per dire, o altri, che hanno fatto tanta tanta pressione, e alla fine, quando lui venerdì ha dichiarato appunto questa idea di isolare lo Stato di New York, dichiara questo lockdown a partire da ieri sera, e lo stesso californiano Newsom, e Trump alla fine nella conferenza stampa ha detto che sostiene la decisione di questi due governatori. Quindi, nonostante, come dire, le differenze politiche, in questo momento sta emergendo la difficoltà anche di questo paese davanti a questo virus che come dicevo, gli Stati Uniti sono già il terzo paese più colpito, in una settimana è aumentato di 10 volte il numero di persone positive, e quindi la situazione, questi, sia Cuomo ma anche De Blasio da settimane continuavano a gridare la difficoltà, sì, la necessità di avere un aiuto dell'esercito. Lui sta emergendo veramente, sì, come un leader, come dicevi tu, concreto, che parla degli interessi comuni, e quindi questo è quello che la gente in questo momento vuole sentire. Sì. Diciamo, Riccardo, ecco, dimmi un commento volentieri su quell'aspetto. Le elezioni sono già cambiate, le elezioni americane, perché le elezioni americane sono il più lungo e costoso show elettorale della storia, e quest'anno saranno virtuali, sono già diventati virtuali perché i vari candidati fanno comizi senza persone, sì, ci sono parti virtuali. Lo stesso Trump, che non ha mai fatto una conferenza stampa, lui ha sempre comunicato in questi anni, a differenza di altri presidenti che ogni giorno avevano il punto stampa, lui comunicava con Twitter, invece in questi giorni tiene delle lunghissime conferenze stampa in cui lui parla, ma poi fa parlare anche tutta la task force che sta seguendo l'emergenza coronavirus, quindi anche lui sta cercando in qualche modo di far passare l'immagine del commander in chief, del comandante, sì, che cerca di portare l'America fuori da questo brutto sogno, sì. E ieri vedevo che mentre lui parlava nel consueto punto stampa su Facebook, la diretta della Casa Bianca, tanti commentavano e non so, dal Texas dicevano: vi siete dimenticati di noi, siete ridicoli, perché in questo momento sentire parlare di grande America, di muscoli, di America potente, di America che ce la fa, sì, denuncia un po' uno scollamento, esatto, forse, no, dalla, esatto, realtà, cosa che invece gli amministratori locali evidentemente hanno, lo abbiamo visto in tante situazioni, anche nell'emergenza coronavirus, tirano fuori delle istanze che a volte l'amministrazione centrale invece fa più fatica a cogliere. Grazie mille Riccardo Barlama, ci risentiremo per raccontare questa strana, davvero stranissima, tornata elettorale americana funestata da questa pandemia. Riccardo Barlama, corrispondente Sole 24 Ore da New York, buona giornata, buon lavoro. Noi che dici, Paolina, andiamo a sentire come stanno andando le borse, incrociamo le dita, tocchiamo ferro, legno, io questo posso fare per il momento. Informazione finanziaria, poi la seconda pagina di Nessun Luogo. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, la seconda pagina di Nessun luogo è lontano, proseguiamo in questo viaggio. La domanda che ci stiamo ponendo è: stati di emergenza e stati in emergenza, quando tutto questo sarà finito, saranno davvero tutti i regimi e i governi pronti, lesti nel ritirare gli eserciti dalle strade, nel ritirare le misure straordinarie, nel restituire alle varie società quelle compressioni dei diritti invece che gioco forza in queste settimane, in questi mesi, noi tutti praticamente, chi più chi meno sulla faccia della terra, stiamo vivendo. Un po' di WhatsApp e di SMS al 349-238-6666. Sugli Stati Uniti Trump si vantava del miglior tasso di disoccupazione nella storia, ma credo che nell'arco dei prossimi 6 mesi dovrà contrastare il più alto tasso di disoccupazione della storia. Questo farà in modo di rivedere la politica dei dazi del presidente, e non solo, aggiungere io, gentile ascoltatore, la tesi che vi stiamo sottoponendo è quanto il mondo dopo il coronavirus sarà ancora uguale al mondo che abbiamo vissuto fino a qualche mese fa. E allora a quel punto la metafora bellica utilizzata da molti giornalisti e non solo, da alcuni francamente additata invece come sviante, potrebbe darci una mano nel capire che c'è un prima e c'è un dopo, e per il momento siamo ancora in mezzo al guado. Abbiamo parlato di stato d'emergenza, ma cos'è esattamente e come si dichiara? Quali conseguenze può avere? Ha una durata temporale limitata? Non tutti i paesi agiscono allo stesso modo. Ascoltate. Che cos'è lo stato d'emergenza? Come si dichiara e cosa comporta? La previsione di uno stato di grave pericolo dettato da condizioni straordinarie, nel corso delle quali un governo può compiere azioni e imporre politiche che normalmente non gli sarebbero consentite, risale ai tempi del Senato romano e persiste più o meno in tutti gli ordinamenti. In tempi recenti, dal punto di vista del diritto internazionale, la situazione viene regolamentata dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, detta più comunemente Patto internazionale sui diritti civili e politici. Il patto è un trattato delle Nazioni Unite scritto per stabilire un nucleo inscalfibile di diritti che dovrebbero essere concessi all'umanità intera. Come tutte queste convenzioni, prevede spesso un linguaggio generico, ma l'articolo 4, l'articolo che regola lo stato d'emergenza, è piuttosto chiaro. Si prevede che in caso di pericolo pubblico eccezionale che minaccia l'esistenza della nazione, gli stati firmatari possono adottare misure in deroga al trattato, ad esempio misure che limitano alcune libertà fondamentali. Attenzione però, anche il pericolo pubblico eccezionale non permette di derogare ad alcuni principi fondamentali. Lo stato d'emergenza, ad esempio, non può essere sfruttato per mettere in stato di schiavitù una popolazione, né per incarcerare cittadini senza un giusto processo. Il trattato è stato firmato e poi ratificato da quasi tutti gli stati ONU, con eccezioni come l'Arabia Saudita, la Birmania, la Corea del Nord o la Cina. Malgrado questo patto, però, lo stato d'emergenza rimane legato alle condizioni della singola nazione che lo proclama. Qualche esempio? In Danimarca certe perquisizioni personali sono giustificate solo dallo stato d'emergenza. Al lato opposto dello spettro, invece, c'è un paese come l'Egitto, dove lo stato d'emergenza è diventato la normalità per quasi 50 anni, dal 1967 al 2012. Questa è la fotografia di quelli che sono gli stati di emergenza di molti stati che al momento sono in emergenza. Non fa eccezione l'America Latina, tra pochissimo vi ci porto, lo farò con le parole e l'analisi di Roberto Daini, inviato del Sole 24 Ore. Non prima di avervi ricordato che vi sono anche stati di emergenza differenti o risposte differenti. Una delle dimostrazioni ci arriva da Israele, dove l'opposizione è insorta contro Benjamin Netanyahu perché il premier, per il momento, perché sapete che Gantz sta facendo di tutto per mettere in piedi il nuovo governo, vuole tracciare i cellulari per verificare le violazioni alla quarantena. Una commissione parlamentare si pronuncerà entro domani per capire se la misura è conforme alla Costituzione israeliana o meno, e nel caso vi sarebbe appunto la Corte Suprema, cioè l'equivalente, che andrà a bloccarla. Buongiorno, ben ritrovato a Roberto Darin, stai lì perché adesso Paolo Corleone ci porta per le strade di Lima. Quello che sentite, ascoltatrici e ascoltatori, è stato uno degli effetti collaterali, diciamo così, del dispiegamento dell'esercito in Perù. L'esercito che controlla le principali arterie della capitale Lima e si è fatto soggetto e autore di parecchie vessazioni nei confronti dei cittadini. Sentivate i numeri recitati in spagnolo con l'accento latino, venivano fatti fare degli squat, piegamenti sulle gambe come se si fosse reclute in qualche corso di addestramento militare. Questa è la nostra breve copertina, ci introduce su quelli che sono, come dire, i pericoli. E soprattutto in paesi dove l'esercito ci ha consegnato storie assolutamente tragiche, appunto del ridispiegamento dell'esercito. Roberto Darin, buongiorno, ben ritrovato, stavolta ci siamo davvero. Buongiorno a tutti voi. Allora Roberto, è difficile affrontare l'America Latina nel suo complesso in pochi minuti, però abbiamo Perù 318 casi, Cile 536 casi, una vittima, Bolivia 19, El Salvador un caso, in Colombia una rivolta nelle carceri. Allora, su tutte l'emergenza coronavirus, se posso timidamente tracciare una linea, ma sconfessami, è che si ricorre in maniera molto immediata all'utilizzo dell'esercito. Con quali conseguenze per questi paesi, Roberto Darin? Dunque, premetto che non sia facile trovare un un filo conduttore, nel senso che sì, quello che tu dici è vero da una parte, dall'altra però ci sono paesi sconfinati, il caso del Brasile che è grande 27 volte l'Italia, sì, dove naturalmente qualsiasi dispiegamento dell'esercito, se non naturalmente nelle grandi città, diventa problematico. E poi effettivamente in Argentina, ad esempio, dove si è parlato di dispiegamento dell'esercito, la reazione della popolazione è stata potentissima, perché ha rievocato il dramma del 1976, quando proprio per una situazione di emergenza venne conclamato lo stato d'assedio, e da lì poi si scivolò in una dittatura con 30.000 desaparecidos che durò fino a 7 anni, fino al 1983. Quindi ecco, ci sono già resistenze, come dire, c'è paradossalmente un sistema immunitario forse più efficiente del nostro per alcuni versi. D'altro canto è vero che alcuni paesi come il Perù o altri paesi centroamericani potrebbero patirne invece delle misure più draconiane, quindi è uno scenario diversificato e a macchia di leopardo. La voce che sentite, il commento, l'analisi arriva da Roberto Darin, l'inviato del Sole 24 Ore in America Latina. Roberto ci sta aiutando in questo compito, forse improbo, in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano, un ragionamento su quanto le dichiarazioni nei vari paesi del mondo degli stati di emergenza possano lasciare benefici strascichi una volta che il coronavirus sarà, e lo speriamo tutti, in fretta abbattuto. Cioè, misure straordinarie irrompono nell'ordinarietà delle nostre vite, dell'azione dei governi. In alcuni casi, con democrazie ben rodate, siamo sicuri che i meccanismi di contrappeso dei poteri faranno ritirare, no, queste ipertrofie emergenziali. In altri casi ci poniamo la domanda invece quanto potranno essere efficaci. Roberto Arin, già ci hai dato un primo affresco molto interessante, data la storia di molti paesi dell'America Latina, la presenza dell'esercito impensierisce, quindi vi sono reazioni. Allo stesso tempo, secondo te è possibile che quei governi riescano, senza queste misure straordinarie, a rendere efficaci quelli che sono i meccanismi di protezione contro il coronavirus? Perché in tanti paesi è necessario, lo vedremo anche in Marocco tra pochissimo. Ecco, dunque, questo è un tema molto interessante, perché fino a qualche settimana fa, è anche vero che poi i fatti si succedono con tale rapidità per cui anche in Europa si cambiano scenari completamente, però i pandemiologi, coloro cioè che studiano la velocità di propagazione dei virus e quindi le epidemie, le pandemie, avevano immaginato inizialmente che in America Latina potessero salvarsi più facilmente che da noi, perché innanzitutto l'età media della popolazione è più bassa, quindi il virus si trasmette, come dire, la popolazione reagisce meglio perché non sono vecchi come gli europei. Sì. In secondo luogo, l'estensione del territorio, essendo così grande. Se si pensa ad esempio che tra Codogno e Grosseto ci sono poche centinaia di chilometri di distanza, ma situazioni completamente differenti in termini di pericolosità, certo, del virus, ecco, questo moltiplicato per migliaia o decine di migliaia di chilometri, questo avrebbe reso tutto molto meno complicato in America Latina. Oltretutto, sì, un altro fattore preso in considerazione era quello del clima, della temperatura, sì, che è mediamente più alta, quindi, sì, anche lì doveva essere un fattore che giocava a favore di un contenimento della pandemia più facile. E invece poi, e oltre alla densità di popolazione, perché un altro fattore chiave, come tutti sanno, certo, è la densità di popolazione, dove vivono milioni di persone tutte insieme, è più facile che il virus si propaghi più facilmente. Ecco, tutti questi parevano vantaggi che invece, alla luce di quanto accaduto, poi delle misure prese negli ultimi giorni, sembra che tutto sia invece stato rivisto. Una cosa interessantissima, proprio a proposito, sì, di quanto stai dicendo tu, riguarda il Cile, dove erano il mese di marzo e di aprile, c'era un cronoprogramma, loro lo hanno definito, di misure di riscrittura della Costituzione in base, certo, al crash che ci fu in ottobre, quindi con una vera con 40 morti di piazza, con disastri per uno scollamento tra società e classe politica. Quindi si era arrivati all'accordo per riscrivere passi importanti della Costituzione a favore delle classi più svantaggiate. Ebbene, tutto questo naturalmente è slittato più o meno sine die per l'emergenza coronavirus. Chiaro. Ecco, un'altra cosa che forse può, sì, interessare, persino divertire, per quanto queste cose siano naturalmente drammatiche, però come curiosità giornalistica, è il Messico, che naturalmente è un paese molto grande con 110 milioni di abitanti e ora sono i messicani che vogliono alzare il muro nei confronti degli Stati Uniti dopo averne partito per anni le dichiarazioni. Le prestazioni di Trump. Naturalmente come... Roberto Tarini, il nostro è un sorriso amaro dato quello che succede, certamente. Ecco, ci dimostra ancora una volta come il coronavirus sia un incredibile acceleratore di ridisegno geopolitico e a volte anche di incredibili paradossi storici. Grazie mille Roberto Tarini per essere stato con noi. È inviato del Sole 24 Ore in America Latina. Adesso Paolo, andiamo a sentire il traffico sulle strade italiane, l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo è lontano. E così Paolo Corleone, velocissimi, ci ha portato tra le strade di Rabat, perché lo dicevo prima, anche in Marocco è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria questo giovedì sera, un decreto che è entrato in vigore l'indomani mattina. Le misure in vigore da 20 marzo al 20 aprile, quindi esattamente un mese, demandano alle autorità pubbliche competenti il potere di intervenire per impedire che le persone lascino le abitazioni, ridurre gli spostamenti, vietare gli assembramenti. A un certo punto è dovuto intervenire anche l'esercito. Perché? Perché vi è stata una serie piuttosto lunga di richiami da parte delle autorità, scusatemi, religiose, per riunirsi e pregare. Peraltro un fenomeno che abbiamo raccontato anche nel caso di alcune realtà africane. Sentite come descrive la situazione Nouila Ridouane, che è una giornalista marocchina, lavora per il sito e la TV Sultana. In questo momento, per esortare la popolazione a rispettare le regole, le forze dell'esercito sono scese in campo in diverse città. Inoltre, il re ha dato le sue istruzioni affinché le strutture sanitarie dell'esercito si mettano a disposizione degli ospedali pubblici. Come giornalisti e come cittadini, crediamo nelle misure varate dal governo e da tutti i suoi membri. I militari non ci spaventano. La loro presenza sul territorio, al contrario, ci rassicura. È un modo per rendere cosciente del problema la popolazione a beneficio di tutti. Per quanto riguarda la nostra libertà, non credo che si possa parlare di vera e propria limitazione. È solo una misura temporanea e quando questo finirà, tutto tornerà come prima. E quando è un po' passione, c'è tutto. Voilà. La testimonianza ci arriva da Rabat, Nouila Ridouane, giornalista di Sultana. Questo per dirvi quanti sono e quanto sono diversi gli stati di emergenza nei diversi stati, perdonate il gioco di parole, per fronteggiare il coronavirus. Quello che ci stiamo chiedendo è se esista un modello virtuoso che possa resistere anche alle tentazioni autocratiche di qualche regime che potrebbe approfittare di questo stato di emergenza per ampliare i poteri e, perché no, detenerli anche quando tutto sarà finito. Alcuni leggono l'ultima mossa di Viktor Orban in Ungheria proprio in questo senso. Oggi il Parlamento ungherese voterà per decidere se procedere eventualmente a una votazione prevista domani su che cosa? Su un controverso disegno di legge che potrebbe dare al primo ministro Viktor Orban il potere di governare per decreto nel paese, però senza termine di scadenza. Sostanzialmente lo stato di emergenza viene prolungato ad libitum. Allo stesso modo in Bulgaria, e stiamo sempre est, zona Balcani, è stato proclamato dal Parlamento di Sofia lo stato di emergenza derivante dal coronavirus. E mentre il governo provava una stretta proprio per tentare di avere più poteri e gestire in totale autonomia la cosa, il presidente della Repubblica si è messo di traverso e non ha concesso al primo ministro di avocare a sé maggiori poteri. Insomma, siamo di fronte a quello che è un vero e proprio scontro di modelli nella gestione del coronavirus, scontro di stati di modelli di stati di emergenza. Buongiorno e ben ritrovato a Paolo Magri, direttore di ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Direttore, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, scontro di modelli, direttore. Cina, Corea, Vietnam, Singapore da un lato, forse se aggrego abbastanza bene insieme, dall'altro un modello occidentale che sta mostrando qualche limite pur piazzando eserciti, limitando le libertà individuali. C'è un modello virtuoso, un modello vincente secondo te? Ma dobbiamo stare molto attenti a sia parlare di modello unico che a parlare di modello vincente. Modello unico non c'è, perché tu citavi poco fa l'Asia. In Asia noi vediamo modelli di sistema di governo molto diversi. Singapore e la Corea sono diversissimi dalla Cina e dal Vietnam, ma c'è un elemento che li accomuna: una cultura di fondo di disciplina e obbedienza cittadini rispetto allo Stato, molto diversa dalla nostra, e un utilizzo più spregiudicato, che è un grande tema, delle tecnologie di controllo, sia nei regimi che nelle democrazie. È normale in Corea, come in Vietnam, come in Cina, che i biometrici vengano utilizzati per identificare cittadini con contagio, tenerli sotto controllo e limitare i loro spostamenti. Anche da noi, il modello occidentale, tu ne parlavi poco fa, ci sono realtà molto diverse che si scontrano. Un aspetto generalizzato, che tutti stiamo riducendo le libertà dei cittadini per la guerra, tra virgolette, questo termine molto usato, e tutti stiamo governando molto per decreti, addirittura il Parlamento in alcuni paesi non si unisce. Quindi questo è un dato comune. Sì. Dentro questo modello occidentale però ci sono paesi che già stavano scivolando, tipo l'Ungheria, che prendono la palla al balzo e accelerano nell'aderire a modelli di autocrazie un po' diverse da quelle che l'Europa vorrebbe avere nei suoi parenti e cugini, e altri che invece cercano di tener botta. Ma lo scivolamento complessivo è un po' di tutti, perché siamo in guerra, lo ripetiamo in tutte le salse, e si cercano soluzioni drastiche e molto cinesi, anche se siamo democrazia. L'analisi, la voce di Paolo Magri, direttore di ISPI, qui a Nessun Luogo Lontano, per cercare di stabilire quanti sono gli stati di emergenza, quali sono, come sono stati decretati, che risposte hanno dato al coronavirus, ma soprattutto, una volta che tutto sarà finito, ne rimarranno tracce. Perché alla fine, Paolo Magri, c'è la possibilità che alcune società si innamorino di queste derive autocratiche, qua uso un'etichetta evidentemente forse un po' troppo vaga, ma in buona sostanza stiamo vivendo in un universo totalmente diverso. Ormai le pandemie abbiamo capito, ahi noi, che possono accadere, abbiamo capito che vi possono essere serie emergenze, e non c'è il rischio che molte società si innamorino di poteri forti che possono garantire decisioni immediate e rapide, e quindi sacrificheremo, immolleremo sull'altare di una maggiore efficienza politica anche le nostre libertà individuali. Lo trovi un pericolo vicino? Era un percorso già avviato da tempo, quello delle democrazie occidentali tentennanti e fragili, che guardavano alle nuove potenze, la Cina in primis, ma anche a quelle tornate, la Russia o la Turchia, con la loro forza, la loro stabilità, la forza dei regimi che programmano a lungo periodo. Questo è un percorso che c'era già, ne parliamo da alcuni anni. Sì. Su questo percorso, questa situazione, questa crisi del coronavirus sta facendo un effetto scatenante. Questo vuol dire che scivoleremo tutti verso dei regimi? No, dobbiamo dire che sicuramente stiamo riscoprendo lo Stato e le libertà dello Stato di toglierci delle libertà nostre in questi momenti di guerra. Alcune cose passeranno con la crisi, nessuno pensa che le limitazioni a portare il cane fuori o incontrare parenti o andare per strada o andare in un luogo pubblico rimarranno in Italia o in altri paesi anche in futuro. Altre cose potrebbero rimanere, la tecnologia esce sdoganata, l'intelligenza artificiale esce sdoganata da questa crisi. Noi prima le vedevamo come diffusori di fake news, come minaccia alla democrazia, sì, come controllo negativo. Sì. Adesso ci tengono vive questi social, questi strumenti, queste piattaforme, ci tengono vivi e ci aiutano, vedi Vietnam, Singapore, Corea e Cina, a contenere il contagio. È un cambio di paradigma. Insomma, si passa, per citare un ascoltatore che ha scritto al 349-238-6666, da un 1984 di Orwell particolarmente minaccioso e cupo a qualcosa di forse un pochino più accettabile. Alla fine, prima Matteo Caccia nel suo programma raccontava di aperitivi virtuali e di cene virtuali. Beh, anche quello è un pezzo della storia. Grazie mille, Paolo Magri, direttore di ISPI, per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro, Paolo. Grazie. Ho Ho l'ultimo minuto e 10 secondi circa. 349-238-6666. Qualcuno è scettico sull'efficienza dei politici, parliamone, ma qua si parlava di efficienza di alcuni regimi, Corea del Sud, Cina. Qualcun altro che mi rimbrotta ogni tanto quando uso il termine regime, molto spesso lo uso in senso lato, si può dire regime democratico come regime dittatoriale, quindi non do una connotazione particolare, se la do invece cerco di essere molto preciso. Le pandemie possono succedere, ma possono essere provocate per scopi vari dai paesi più forti. Io vi prego, ascoltatrici e ascoltatori, se avete questa opinione, che è assolutamente legittima, però abbiate il coraggio di suffragarla con delle prove, con degli studi. Continuano a girare davvero queste strane teorie complottistiche. Capisco che possano essere seducenti, perché un nemico invisibile che è arrivato, sì, è arrivato dalla Cina, ma che si è diffuso in maniera così subitanea, così infida. Capisco che avere una spiegazione così razionale, così che è quella, guarda caso, che i media mainstream non danno, possa essere seducente, però questi continui WhatsApp con queste tesi, alcune veramente, veramente strampalate, lo ripeto, hanno solo un vizio, a mio parere, che ci allontanano da quello che è lo sforzo che dobbiamo avere noi tutti, cioè cercare di raccontare il più possibile le cose come fanno. Il mio sforzo era essere puntuale, ma nonostante tutto, Paolo Corleoni mi dice... che è il preludio ai ringraziamenti, ai titoli di coda e quindi ai saluti, ringraziamenti a voi che siete stati all'ascolto, a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. L'appuntamento è per domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.